come stai, Veronica? Benvenuta a Radio Città Fujiko. So che tu qui c'eri già stata. Sì, c'ero già stata. Ero stata ospite di Gemma nei suoi lunedì con basso profilo, anzi non con basso profilo, con la sua trasmissione precedente di qualche anno fa. Mi sembra niente di che, perché adesso si è trasformata in basso profilo lunedì sera. Il lunedì sera, che fra l'altro è una serata in cui non riesco ad ascoltare. Ad accedere, potrei accedere da dovunque, è che non ho proprio fisicamente il tempo di. A che ora è il basso profilo? Dalle 8 alle 9. Allora sarebbe anche fattibile in realtà, pensavo più tardi. È una trasmissione musicale con di basso profilo, sì, naturalmente. Sì, assolutamente basso profilo. Dunque, il pezzo, loro si chiamano i Losers, featuring Riz, MC and Envy, e il pezzo si chiama Flash. Si sposa perfettamente la trasmissione. Esatto, appunto un pezzo chiamato Flash per uno che stampa un obsolete sheet non potrebbe essere. Esatto, che ho di fronte a me nella loro interezza, perché mi ha appena fatto un regalo, Stefano mi ha portato la sua raccolta di obsolete sheet. Sono il suo progetto editoriale, mostra da ormai, da quanti anni ce l'hai? Ho cominciato nel 2008, per cui effettivamente fra un po' devo fare il numero decennale. Peccato che la radio non abbia una web TV, perché sennò era bello farveli vedere. Certo, anche se in realtà questa puntata dopo sarà riproposta su www.coxospaziale.blogspot.com, dove troverete magari anche una foto o due, anche se tu ti sei messa completamente al buio, per cui non ti posso fotografare. C'è un messaggio che dice: il video è bellissimo, ma penso che sia tipo di due settimane fa. No, nel caso vogliate messaggiarci, il numero è, non c'è più. Dove l'hanno messo? Posso, te lo posso dire? 051 34 64 58. No, quello è il numero della diretta, ma io non sono in grado di rispondervi, perché se vedete allora com'è fatta la console del telefono. O SMS? L'SMS 333 180 94 94. Okay. No, figurati, no, c'è scritto sai telefono che non diretta. Solo a non saper utilizzare il telefono della diretta. No, guarda, devo dire che io ho lavorato in altre radio in cui era semplicemente, c'era un pulsante rosso che diceva telefonata, tu lo schiacciavi e rispondevi, mentre invece qui c'è una console che sembra una roba tipo da sottomarino della Seconda Guerra Mondiale, che è bellissimo. Riccardo Lolli e Fedra sono riusciti a imparare a usarlo, ma io ahimè non ce la posso fare. E così. Detto questo, ci hai portato un sacco di musica e non aspettiamo altro. Quando ho ricevuto il tuo invito ho fatto un po' mente locale su cosa poteva essere interessante condividere con te questa sera, e ho voluto in particolare portarvi una selezione di brani che vengono tutti dal progetto che sto portando avanti in galleria ormai da un anno. Si chiama Giardino Magnetico, è una sorta di format multidisciplinare tra performance, ricerca sul suono, che sto portando avanti con diverse etichette indipendenti che si muovono sul territorio italiano. Dopo, poi, nello specifico, se avete voglia, se hai voglia, te ne parlerò meglio. È una ricerca sul suono elettronico, esotico e statico. E abbiamo iniziato un anno fa, si sono succeduti in galleria performer e musicisti un po' provenienti da diversi ambiti della scena contemporanea e anche un po' da scena nazionale e internazionale, e per cui questa sera una selezione di quello che è successo in galleria durante l'anno. Fantastico, perché comunque appunto la tua galleria si occupa di tutto, anche troppo. Appunto, no, effettivamente dopo poi vorrei parlare di questo, però magari prima ascoltiamo, lanciamo Babau. Partiamo da Babau. Babau è un progetto dell'etichetta Arte Tetra, sono un duo di antropologi marchigiani. È una delle etichette della scena indipendente secondo me più interessante, e questo è uno dei loro primi album, che poi non sono album perché loro registrano solo su nastro magnetico. Per cui sono dei nastri. Esatto, fantastico. Sono dei nastri, e il pezzo si chiama Palo Bajombre. Olé. Thank you. Qualcosa su sto pezzo? Beh, intanto mi piace pensare che questi due ragazzi sono due antropologi che si sono trasferiti a Bologna dalle Marche perché erano interessati alla scena bolognese, non solo sotto un profilo antropologico universitario, ma anche proprio sulla scena legata proprio all'underground. mi interessa di loro, a parte il, proprio il suono che riescono a creare, il fatto che registrino in camera. Fantastico. Sia la parte di dub, sia la parte di packaging, perché loro curano tantissimi i loro nastri magnetici, che sono in edizione super, super limitata, proprio per il fatto che nascono in casa e non hanno dei grandi mezzi per la produzione. No, effettivamente mi sono sentito un po' inadeguato quando mi hai detto posso portare delle cassette, ed effettivamente a Radio inusuale. Città Fujiko non ci sono più. È un'osservazione interessante che mi è capitato nell'ultimo anno di avere in galleria, di riavere questo oggetto fra le mani dopo tantissimi anni che non mi capitava di avere un nastro magnetico in casa. E mi sono fatta delle domande, l'ho fatta anche a queste giovani etichette che l'hanno riproposto sul mercato indipendente. Alla fine è un'esigenza anche strettamente economica, il fatto che masterizzare un CD e riproporlo è molto più dispendioso, per non parlare del vinile, rispetto che la produzione magnetica, che sotto un certo punto di vista ti garantisce anche più una sicurezza di conservazione rispetto che paradossalmente le mie cassette degli anni 80 e 90 sono ancora lì belle come il sole. Infatti ho comprato un mangianastri della Sony nuovo di PAC per digitalizzarlo anche loro perché invece i CD i miei CD dei primi anni 2000 sono già morti, proprio sono già consumati, per cui un discorso legato anche proprio alla perdita dell'archivio alle ansie che ti possono portare a decidere di registrare su un altro tipo di formato. Per cui mi sono appassionata a questo tipo di ricerca anche grazie a questi input dati da questi ragazzi che hanno una maniera di porsi assolutamente più libera rispetto ai canali tradizionali mainstream del mondo musicale. Certo, che stanno morendo anche loro, fra l'altro. Esatto. No, effettivamente il mondo musicale è cambiato tantissimo negli ultimi anni, ma così come il mondo dell'arte del resto. E mi sembra che tu sei una di quelle che si adegua meglio di altri. Ti ringrazio, non so ancora esattamente cosa sto facendo. Il progetto della galleria è un progetto fluido, si sta muovendo con me, e credimi che solo guardando indietro rispetto a quello che ho fatto negli ultimi 3 anni magari mi rendo conto di quanto stia cambiando anche il percorso che sto facendo in galleria. Galleria Più, già dal nome Galleria Più nasce, non si sente che magari pronunciandolo, però a 3L, esatto, per cui è già impossibile da trovare internet. Però alla fine ho proprio un'idea di uno spazio che ha anche più identità e più anime. Però detto questo, per uno come me che cerca su internet tantissime gallerie spessissimo, nel momento in cui metto la terza L salti fuori subito. Esatto, il che effettivamente o finisco nel dimenticatoio o diventerà il mio punto di forza. Secondo me lo è già il tuo punto di forza, questa terza L. Ma detto questo, quando esisti da 3 anni come allora, Galleria Più? A novembre sono 4 anni che mi sono trasferita, perché mi piace sottolinearlo, la galleria è situata nel distretto delle manifatture delle arti, che magari non tutti i bolognesi sfortunatamente conoscono. È un distretto culturale che sta andando a definire nel tempo, facciamo da corollario al Mambo, al Museo d'Arte Contemporanea e Moderna della città. La mia galleria è proprio a ridosso, si affaccia sul Parco del Cavaticcio. Non ci sono solo io in questo quartiere, sono fortunato, dei colleghi e dei partner super stimolanti, spazi gestiti da artista piuttosto che altre gallerie, perché io sono una galleria commerciale, ma mi piace invece pensare che sto facendo un'attività culturale, perché in realtà mi occupo di scouting, faccio un sacco di ricerca, per cui mi interessa buttare sul mercato nuova linfa. Certo. E di fatto, se non ci fossero gallerie che scommettono come me, questo mercato sarebbe bello che fermo, nel senso che assolutamente giocheremo solo al mercante in fiera scambiandoci le carte di chi già al mercato lo sta facendo da tanti anni. Quindi ci sono io, ci sono spazi no profit, altre gallerie private, si sta delineando una scena interessante. Secondo me il contemporaneo a Bologna, in città, lo stiamo facendo noi, manifattura. E questo interesse per la musica è nato, tu ce l'avevi già? C'è sempre stato, dico, adesso è entrato anche in galleria, perché di fatto 4 anni fa, quando mi sono trasferita in manifattura delle arti, ho fatto un'attività di rebranding sul logo della galleria, che prima si chiamava Oltre Dimore. Certo. Perché di fatto mi sono dedicata all'arte contemporanea da più o meno 8 anni, da 4 anni ho aperto galleria più e prima ho iniziato con una ricerca più legata all'arte relazionale, in particolare al food come medium per parlare proprio di relazioni. Mm-hmm. Mi interessava che Galleria Più fosse uno spazio non il classico white cube dove stare lì e guardare solo la mostra, ma proprio uno spazio dove poter stare, dire, pensare, partecipare, farsi delle domande. E da qui l'idea di integrare anche un banco lavoro con un angolo caffetteria, una zona dedicata all'editoria indipendente. Per cui i primi 2 anni e mezzo molto più focalizzato su una ricerca dedicata al cibo, all'azione alimentare, proprio al passaggio che c'è tra prendere un cibo in mano e metterlo in bocca. E adesso invece in maniera fluida mi sto spostando di più sul corpo, sul suono, già da un anno per 2 giovedì al mese. Scusate, scusate il motorista, ma non sono degli effetti speciali. Non potevamo tenere la finestra chiusa oggi perché qua dentro ci sarebbero stati 35 gradi. Dicevo, già da 2 anni nel basement della galleria, perché ho una piccola cantina che ho pian piano sistemato, si sto aprendo due volte al mese per dei progetti strettamente legati al corpo, al suono. E poi un anno fa l'incontro bellissimo con i ragazzi che mi stanno curando Giardino Magnetico, come ti raccontavo prima, che sono presentati in galleria, abbiamo messo insieme questo format multidisciplinare che mi sta dando grandi soddisfazioni. Grandi soddisfazioni e gran lavoro. E che sì, grande lavoro. C'era uscito da poco un articolo che parlava Galleria Più, Giardino Magnetico, si sta definendo una avanguardia, è come fare avanguardia con poco. Effettivamente. In realtà poco non c'è perché siamo... Sono 3 etichette, la galleria, un sacco di partner che ci stanno dando una mano, in realtà c'è tanto tanto lavoro. I 2 minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. See you, mama. Bye, take care. Grazie, amore, grazie. Sono molto bella oggi. Questo è un vero complimento, che mi dici che sono brutta, io l'accetto veramente perché stavo così, perciò sei vittima. Metti un X. Camel, un po' un lumps. Conoscete un cantante che si chiama Riccardo Lolli? No. No. Fa un po' la faria, sa, mi ami, sì. Au, oh, au. Oh. Aspetta, faccio una domanda. Chi? No, no. Dietro di te. Voglio. Buon pomeriggio, amico. Mi chiamo Daria. Io sono 28 anni. Sono nativa di Ru. Sono molto impegnativa, pensosa, buona e provata. Ma io sono il muffettino e cocciuta. Ahi, io non sono un angelo. I miei interessi. Camminata e andare in bicicletta, rilassarsi nella natura, schitarrare. Voglio vivere una vita lunga e felice, con la mia amore. Cerco un uomo caritatevole, con il senso dell'umore, e un uomo orientato alla famiglia, che non fuma e che capisce i difficili di ambientarsi di un altro paese. Per me è molto importante la fiducia e la stima corrisposta nel rapporto con la mia amore. Mi sta davvero molto lì per incontrare la mia amore. Con migliori auguri. Già finito? Arte contemporanea. Eccoci qua. Ma questi, chi sono? Questi sono i 2 minuti di Lolli. Riccardo Lolli è questo cantautore abbastanza demenziale a cui abbiamo chiesto di farci 2 minuti appositi per Coxo Spaziale ogni trasmissione. Questo era il numero, se non sbaglio, 56. Per cui no, sono, ma è geniale, 50, sono tutti annunci. Sì, sì, no, sono uno più bello dell'altro. Ce ne sono alcuni che ti fanno veramente scompisciare, altri. Beh, lui è lui. Ti devo assolutamente regalare una copia di Fuori Catalogo, il suo ultimo CD, che si chiama appunto Fuori Catalogo, ed è veramente fantastico. Penso sono che... tutte demenziali come questo? Più o meno sì. Sì, direi che più o meno sì. Anzi, ne approfitto per salutare Riccardo, che lui sta su in montagna e ogni tanto quando... Ciao Riccardo. Quando insisto scende dalla valle e viene a trovarci, anzi lui è in grado di prendere le telefonate, però non mi può telefonare perché altrimenti non rispondo. E così, no, scusami, ti ho interrotto senza alcun preavviso. No, ma beh, bellissimo, invece è bellissimo, perché essere interrotti da una sequenza del genere è piacevole. Adesso fra un po' ce ne sarà un'altra, perché non contenti dei due minuti di Lolly, abbiamo anche chiesto a questa artista che si chiama Vino. Perché ho raccontato prima a Stefano che io Coxo Spaziale non l'ho mai sentito per intera la trasmissione. Mi è capitato molto spesso di connettermi, ma non ho mai seguito il format. Per cui è molto interessante per me questa sera anche capire queste. Il capire che non c'è niente da capire. Ah, esatto. No, assolutamente. Siamo molto fluidi anche noi, come infatti. Tutto appunto, fluido. Tutto, no, anche perché io penso che in questo momento storico. Sia quasi obbligatorio assumere questa fluidità e leggerezza di così di animo, in realtà, perché altrimenti saremmo da sparare. Esatto, cioè, bisognerebbe inventare un nuovo esistenzialismo e non siamo ancora abbastanza pronti, sì, appunto, per vivere così disperati. E così, sono già i 28, direi che possiamo mettere la nostra pubblicità delle 9:30. Mettiamo questa, così ci ripigliamo e dopo ascoltiamo un altro dei tuoi pezzi, dei pezzi che ci hai portato. Volentieri. Anzi, magari dopo andiamo di vinile, perché a me piace moltissimo mettere sui vinili. Arriva l'estate e torna alla Budrio Beer Fest per rendere ogni sorriso ancora più bello. Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM. Olè, eccoci qua di nuovo, Coxo Spaziale puntata 186. C'era una ragazza che mi ha detto di non dire chi è, che ci stava messaggiando, che mi diceva: ma non è vero che sono così le cose di Riccardo Lolly in Fuori Catalogo. Effettivamente è vero, Fuori Catalogo è una raccolta di canzoni di Riccardo Lolly. Ma che spettatori attenti che hai! Abbiamo una spettatrice molto attenta che salutiamo. E, anzi, prima si lamentava che era in ritardo, ma era il nastrone che era in ritardo. Che dire, è così. E dove eravamo rimasti? Io mi sono già perso, avevamo deciso di mettere su un vinile. Ti ho portato una delle ultime uscite di Communion. Grande. Che è questa etichetta, sono Federico e Francesco, due ragazzi di Milano, sono due ragazzi che fanno parte del comitato di Macao, questo spazio incredibile occupato già da un po' di anni in un quartiere leggermente periferico di Milano. E questa è una compilation che raccoglie alcune tracce, si chiama Interdimensional Folklore Volume 1. Esatto, anche in questo caso una ricerca sul suono, è un folklore contemporaneo, quindi con moltissime contaminazioni legate sempre al tema dell'esotico. Tra l'altro devo dire che anche la copertina è... Sì, non so chi l'abbia fatta la bella copertina. Artwork by H-Dead, chissà. E mi piacerebbe ascoltare la traccia numero 1, che è di AMR. Già il titolo è un programma, perché è perso nel mio vuoto. Adesso ce la possiamo fare. Sentite che tolgo. Ah, ma è trasparente, bellissimo. Sì, è una figata. Lo devo fotografare. Allora, side è un gioiellino. Presumo che sia a 33 giri. Presumi bene. Power on, start. Io. Okay. Si mixerà benissimo con la questo, base che con sento. Con questa base che non so da dove arrivi. Ma... La console non ha molta voglia di funzionare, perché? Partito. Ah, eccola. Eccola, no, era sound molto, era, perfetto era molto per, queste, bassa, per ecco questi perché. 40 gradi esatto. Bolognesi. Adesso alziamo un attimo e vediamo cosa succede, abbassiamo noi stessi. so, sta finendo secondo te? No, è il suo pieno svolgimento. Ah no, cavoli, allora ho rovinato l'atmosfera. Ah ecco, è finita adesso. Questo è il pezzo dopo invece. Lo lasciamo un po' come sottofondo magari. Sì, volentieri. No, è fantastico. E poi in vinile trasparente. Sì, effettivamente ti avevo abbassato, ti avevo alzato poco. Adesso, eccoci. Eccoti qua. Questi dove li hai trovati invece? Questi sono venuti a suonare in... No. Sì, Communion, Federico e Francesco fanno parte del direttivo di curatori che selezionano gli artisti che partecipano al format. Mm-hmm. E si fanno anche dei DJ set in galleria, perché le serate di Giardino Magnetico si svolgono in maniera molto aperta. La performance è sempre verso le 9:30 di sera, però prima la galleria è visitabile con la mostra in corso e anche con i DJ set sempre a cura dei componenti delle varie etichette. E io in realtà ti volevo sempre invitare poco prima che avessi una mostra da raccontarci. Ho inaugurato ieri, a dir la verità. Stavolta ti ho mancato di poco e hai inaugurato ieri. Ho inaugurato ieri questa collaborazione che stiamo già facendo da 3 anni con l'Accademia delle Belle Arti di Bologna. Fra un po' sta arrivando una tempesta. Si sta da Dio. Infatti. Ho visto che ieri hanno, per chi non lo sapesse, perché la settimana scorsa purtroppo non l'abbiamo menzionato, ma c'era l'opening di tutte le varie gallerie con le varie mostre dell'Accademia. Esatto, un progetto che si chiama Open Tour. Mm-hmm. Di cui io ho il hai il cartello, hai il manifesto. Mi sono portato un manifesto. Sì, mi sono portato. È una collaborazione interessante, tra parentesi, è anche una. Almeno le collaborazioni che 14 gallerie di Bologna hanno firmato con l'Accademia è unica nel suo genere in Italia. Infatti. Perché ci impegniamo, noi che abbiamo firmato durante l'anno, a lavorare con una classe. Io ho scelto di lavorare già da 2 anni con linguaggi multimediali, che è la classe di Lelio Aiello. Mm-hmm. E seguiamo il professore, ma in particolare i ragazzi, durante lo svolgimento dei corsi, per dar vita a una collaborazione che si concretizza alla fine dell'anno con una mostra in galleria, che non ha niente a che vedere con una semplice restituzione o una presentazione dei lavori durante il corso, ma è un progetto vero e proprio che permette anche ai giovani ragazzi di confrontarsi con degli spazi attivi sul territorio. Quindi una cosa molto interessante. Io quest'anno avevo i più giovani, avevo la seconda classe del triennio. Fantastico. No, effettivamente io al mio direttore dell'Accademia di Torino, dove insegno, parlo sempre di questa cosa e dico che assolutamente dovremmo farla anche noi, perché effettivamente far uscire i ragazzi nello spazio e anche nelle gallerie commerciali, nelle gallerie private, è un regalo enorme che l'Accademia fa. Perché ci sono tante cose che l'Accademia forse anche erroneamente non sta spiegando. Certo, anche se alcuni professori adesso si sono un po' svegliati, sì, e stanno raccontando com'è il mondo dell'arte, però effettivamente una cosa è sentirlo dalle dire. Dalle cose più banali alle cose magari meno scontate, da come si compone un prezzo, esatto, dalle edizioni delle fotografie, sono totalmente all'oscuro di queste cose. Mi piace ricordare che la mostra è curata da Caterina Sinigallia, mm-hmm, che è stata lei che ha seguito durante tutto il semestre i ragazzi ha dato un tema, il tema del confine. La mostra si chiama Through, è proprio un'idea del periodo che stanno anche attraversando questi post-adolescenti, che ancora non hanno troppo chiaro cosa faranno sia nella loro carriera d'artisti sia anche nella loro carriera di persone. Infatti, perché è un momento veramente magico. È un limbo magico, sì, e alle volte, esatto, devo dire che è meglio rimanerci. Sì, devo dire che alle volte è veramente magico vedere questi personaggi non formati che però hanno un potenziale enorme. Sì, è stata bravissima la curatrice che ha veramente intravisto questa attitudine, ha reso proprio la forza della mostra proprio questo riferimento a un confine non tanto geografico ma piuttosto interiore, proprio questo stato che nel quale un po' ci sguazzi, detta la bolognese. Certo. Un po'. Io volevo menzionare che ieri ho visto anche la mostra della P420, dove c'era sia Irene Fenara che una collettiva cura di Massimo Marchetti, locale 2, dove c'era un gran casino, non ho capito niente, però era mostra fantastico. Mostra cura di Irene Angenica. Ah, vedi? E anche da Alessandro, da Cardrd, che però non mi ricordo. Davide. Anche lui una collettiva di artisti dell'ultimo anno dell'Accademia. Sì, che era molto interessante anche quella. Sì, vedi, alla fine no, devo dire che si riescono a fare degli ottimi progetti e sarebbe un motivo interessantissimo proprio per la città di dare forza a questi, a queste collaborazioni. Dovrebbero diventare proprio a livello nazionale dei momenti per fare ricerca, certo, e per attivarle. Ricordiamoci che gli artisti sono il motore di tutto, per cui avere gli artisti dentro le gallerie e gli artisti che studiano in città è solo un qualche cosa di guadagnato. No, no, assolutamente, anch'io vedo in un mondo ideale, io vedo appunto le accademie che si svegliano, che diventano parte del tessuto della città, che coinvolgendo appunto tutto il mondo, non solo il mondo dell'arte contemporanea ma anche tutto il resto, certo, e le gallerie che diventano un posto di confronto, no? Di confronto sociale, non solo di così, non solo spazio espositivo, appunto. E nello stesso tempo spero anche di rivedere gli artisti che diventano gli artisti, i curatori e insomma noi del mondo dell'arte che diventiamo parte di quello che è la cultura generale di questo paese, perché effettivamente siamo due bei sognatori ma vabbè, ma l'importante è non essere soli, capito? A Bologna non siamo in tantissimi, però siamo insomma ce la si può fare. E no, fra l'altro a proposito del tuo spazio, proprio mentre mi raccontavi gli esordi eccetera e anche questa fluidità dello spazio, pensando sia a te che a Locale 2, che è lì vicino a voi, che è lo spazio di Fabio Farnè, che se non sbaglio è stato anche ospite qui, sicuramente Gabriele Tosi è stato ospite qui non poche volte perché mi ha sostituito per un mese quando io non c'ero, ed effettivamente mi fa pensare che quello che la Neon ha lasciato a Bologna siete voi, no? Se non altro come atteggiamento mentale, no? Guarda, mi viene la pelle d'oca pensare a un paragone del genere, ti dico la verità, parlare di queste scene è sempre bisogna andarci con... Sì, certo, però poi effettivamente... Vedremo col tempo, non mi esprimo. Io sono sempre molto critico della mia città, come tu ben sai. Sai, io quella è una scena che ho vissuto poco, perché io tra virgolette mi sono un po' improvvisata, te l'ho sempre raccontato, nel mondo dell'arte contemporanea ci sono arrivata da totale outsider. Certo. E proprio, forse proprio per questo mi sto anche così divertendo, perché ho un approccio abbastanza altro rispetto ai canoni tradizionali. Certo. Della Neon ne ho sentito parlare tantissimo, l'ho solamente annusata nei periodi finali e sì, tanto di cappello per tutto il lavoro che, certo, che ha no, fatto. Io invece negli anni 90 comunque, quando era per parlare, al suo picco di importanza, anche perché effettivamente c'erano mostre importanti, io abitavo a Londra e l'andavo a vedere una volta all'anno quando, e mi è capitato appunto ho avuto la fortuna di vedere due mostre fantastiche di Eva Marisaldi un anno e tre anni dopo, credo, ed effettivamente l'atmosfera era, cioè a parte che le mostre erano cioè per quegli anni lì erano veramente d'avanguardia. Beh, cioè erano opere che non vedevi da nessun'altra parte. L'attività che sta facendo Locale 2 per me è importantissima. Se io penso negli ultimi due anni i giovani artisti che sono passati per questi, veramente sono più o meno 20 metri quadrati di spazio, sono gli artisti che stanno veramente dettando la scena del sistema contemporaneo, sempre mi piace utilizzare sempre questo termine, ma d'avanguardia. Ed hai per fatto bene a menzionarlo, avere perché questa fucina all'interno della manifattura delle arti è un qualche cosa di meraviglioso, per cui bravo Gabriele Tosi, bravo Fabio Farnè e tutto il team che lavora dietro questo spazio. Dicevo, hai fatto bene a menzionare Locale 2 perché è ora del l'angolo della menzione che sarebbe appunto questa piccola rubrica l'abbiamo dove, già fatto qui dove appunto dove si menziona quello che succederà. In realtà prima di tutto bisogna menzionare la mostra di domenica che non mi ero segnato, però si intitola Anime di luogo in luogo ed è una personale di Christian Boltanski o Boltanski, come si pronuncia? Francese io o Boltanski? Non lo so. Ed è questa inaugura al Mambo, che come sappiamo in via Don Minzoni, domenica 25 alle 7:30 di sera, 7:30 p.m., 19:30. E questa è una. Ricordiamo anche che nella mostra, una mostra che si svincola in diverse altre luoghi della città, ci sarà uno spettacolo teatrale all'Arena del Sole, una installazione presso l'ex bunker della polveriera dei giardini della Lunetta Gamberini e un progetto speciale nell'ex parcheggio Giuriolo. Ma sei preparatissima, grande. Non potevo chiedere una assistente migliore di te. Mentre invece giovedì 29 giugno alle ore 19 inaugura appunto locale 2 con No Subject, che è una personale di Giulio Saverio Rossi a cura di Carolina Gestri, e questa è a locale 2 in via Zogardino 12C Bologna, giovedì 29 alle ore 19. Ultima menzione da non perdere, certo. Questa sera si chiude il Festival di Ombre Lunghe alla Tellersi, è veramente una panoramica interessantissima sulla scena della musica indipendente, è iniziato giovedì sera e si conclude questa sera. Ah, grande. No, scusate, credevo fosse sabato, si conclude domani. Sì. E tutto questo naturalmente domani lo troverete su www.coxospaziale.blogspot.com. E invece adesso è ora di ascoltare il minuto di Zino, e in realtà dura la rubrica di Zino 1 minuto e 33, come il nome di un cinese. Un giorno qualcuno mi chiederà: cosa pensi di Pasquini? Ho riflettuto molto a questo e, a dire la verità, vorrei spezzare un'arancia a suo favore, che per quanto mi riguarda rimane sicuramente un tipo veramente sui Genesis, oltre che una vera e propria pietra emiliana dell'arte di oggi. Oddio, per la verità dico ciò anche se io non sono molto afferrato in materia e non vorrei passare per il tutt'autom della situazione. Tuttavia, mi fa sempre piacere ricordare quando in una giornata fosa d'agosto entrammo in una piccola gelateria di quartiere. Col suo usuale parlare furbito, il Pasquini mi disse: non sarà il massimo, ma a caval dannato non si guarda in bocca, perciò entriamo. Come di mansueto, la mia prima tappa fu in fondo a destra per esplicare le funzioni corporali, e quando aprì la porta caddi lateralmente dalle nuvole. Un cartello a pennarello diceva: lasciare il bagno pulito, perché la stessa mano che lo pulisce è quella che ti fa il gelato. Pensai alla condizione lavorativa dei poveri giovani precari e a Pasquini che leccava un cono alla stracciatella. Ecco, questo era il famosissimo artista Zino, che come vedi, come senti, mi vuole molto bene. Ma ti regala queste perle tutte le settimane? No, effettivamente la parola Pasquini non può mai mancare in una delle sue rubriche, per cui sì, in un certo senso direi di sì. Per cui le rubriche di Cosso sono le canzoni di i drammi di Lolli, esatto. Il minuto è l'angolo della citazione, l'angolo della menzione, e poi abbiamo il e si chiama come il nome di un cinese, la rubrica di Vino. Ho rimesso come sottofondo il Communion. Sì, perché l'altro non si sente, non so perché. E detto questo, stiamo sforando di brutto. Mi piacerebbe sapere se qualcuno ha caricato un file dopo di noi o no, ma lo scopriremo solo vivendo, perché alle volte noi sforiamo di 5 minuti e poi dopo che ore sono? Sono le 21:50. Abbiamo ancora 10 minuti di chiacchiere. Che possiamo naturalmente nel frattempo dice Fedra che sono imbabbanito perché l'ospitessa deve essere una gran gnocca, sta usando dei termini coxici. Chi lo sa, sì, non c'è la telecamera, avete la TV, potete saperlo. Non possiamo saperlo, dubbio. Diciamo che è il mio tipo. Questo messaggio subliminale per Fedra. Ma quali sono i tuoi tipi? Vabbè, i miei tipi devono avere questo disadattamento di base, no? Ok, allora ci puoi rientrare ampiamente, certo. No, non ho dei tipi, assolutamente. Fedra, non credere niente di che. grande delusione quando mi vedrà. Ma secondo me, vabbè, sicuramente vi sarete viste. Se no, vi vedrete in futuro, perché tanto tu tornerai. Anzi, sì, volentieri. Secondo me dovresti tornare con tua sorella, così sì, fate un po' di. Sì, sai di, che di noi cacciare. Eravamo le vipere nella trasmissione di Gemma del lunedì sera. Noi eravamo le due co-conduttrici. Fantastico. E eravamo dette le vipere. Perché anche sparavamo a zero sulla folla. Bolognese. Ah, fantastico. No, capisco questa volontà di viperamento. Anche il mio direttore di Torino mi chiama la vipera, ma anzi ne approfitto per salutarlo. No, in realtà dovevo salutare, però non faccio una bella figura se non mi ricordo il suo nome, giusto? No, anche perché se dopo poi me lo ricordo, continuo a non fare una bella figura. Dove è andata? No, non trovo l'email. No, mi ha detto una mia studentessa che ci ascolta. Allora la volevo salutare, ma non mi ricordo il suo nome. Michela. Niente. Vabbè. Monica Simeoni. Ciao, grazie perché ascolti Coxo Spaziali. E in bocca al lupo per Brera. Dicevamo, come siamo messi? Ascoltiamo Fobisa? Ramsey. Chi sono questi? Lei è un'artista canadese. Ah, il progetto che stiamo andando ad ascoltare è stato realizzato in un ciclo di residenze che ha svolto intorno al Mediterraneo più o meno un anno e mezzo fa. È nato questo Fobia, volume 1. E suoni alieni atterrati in un bosco. Fantastico. Così che fra l'altro avevo un artista canadese anch'io che ho portato a Bologna, soltanto che il giorno dopo l'ho portata a Venezia, per cui non te l'ho portata a trovare. Perché partecipava alla Biennale di Monza. Infatti domattina prestissimo devo andare a Monza a ritirare un premio per lei che ha vinto. No, non dovevo dirlo, vabbè, tanto non credo che a Monza ci ascoltino in tanti. Comunque, nel caso non l'avete sentito, è ufficializzato domani. Fobisa. Thank you. buried in the years. Aiuto Veronica, ci sta finendo il tempo, come facciamo? Sfuma, sfuma. Sfuma, sfuma. No, io sto guardando gli spot delle 22 che mi stanno per partire. Cos'altro mi puoi raccontare prima di salutarci? Ti ringrazio per avermi invitato. Devi tornare perché io non ho capito niente. Per... Ti farò un controinvito a te e a tutta la tua i tuoi complici della trasmissione. Anche abbiamo un nuovo progetto iniziato a settembre, una web radio sempre nel basement della galleria. OCWR, una piattaforma online di musica eclettica selezionata con gusto. Mm-hmm. E podcast costruiti apposta per la piattaforma. Quindi molto piacere se... Ah, certo. Noi non abbiamo trasmissioni parlate al momento, però sicuramente... Prima o poi qualcuno dirà una parola. Qualcuno dovrà aprire bocca. Nessuno ha mai aperto bocca? No, mai. Ma fantastico. Posso venire a aprire bocca per primo? Sì, dai, volentieri. Mi piacerebbe anche Zino. Ah, Zino lo portiamo. Lui di solito durante Arte Fiera sale, ma se gli chiedo di venire su, arriva. No, volentieri. Zino è fantastico, assolutamente. Ti porto Zino e Riccardo Lolli e anche Fedra. Tutta la squadra. Tutta la squadra con anche... Fantastico. Senti, io ti ringrazio e grazie ringrazio a voi. Veronica Veronese di Galleria Più, diciamo dov'è Galleria Più? In via del Porto, via del 48A. Porto. Ah, quella, anche quell'angoletto lì è via del Porto. Sì, okay. È fatto a T. No, effettivamente non lo sapevo. E che praticamente è dietro l'angolo del Mambo, non si può mancare ed è aperta tutti i giorni praticamente, sì. A parte il lunedì. Sì, da oggi, visto che il programma estivo ci porta a chiudere sabato e stare aperti il lunedì. Ah, fantastico, perché effettivamente ormai di sabato sì. Non viene più nessuno. Ah, e però tenete aperto il lunedì, siete proprio... Siamo molto rigorosi lì, no, abbiamo tanto da lavorare. Ah no, immagino. Quindi... Bene, grazie mille, questo era Coxo Spaziale. Grazie a te, Stefano. E ci sentiamo la settimana prossima con... Vi lascio col programma di Radio Città Fujiko. Forse c'è Radiology o forse anche no. Intanto ci sono gli spot. Stai ascoltando Radio Città Fujiko 103.100 FM.